Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, un'Europa che vede ancora, sempre di più, diciamo, dalle ultime settimane, crescere la tensione a est, ai suoi confini orientali. Come forse avete sentito nel corso di giornata, le ultime novità riguardo all'Ucraina sono, da una parte, una manifestazione di intenti che dovrebbe portare gli Stati Uniti addirittura a armare direttamente l'Ucraina, dall'altra una risposta durissima dei ribelli filorussi che intendono ripristinare la leva obbligatoria per avere oltre 100.000 soldati a disposizione. Questo il quadro, e in questo contesto si inserisce sicuramente la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel a Budapest. Incontra il premier ungherese Viktor Orban, che preoccupa Bruxelles e Washington per il suo ottimo rapporto con il presidente russo Vladimir Putin. Incontro previsto tra Orban e Putin il prossimo 17 gennaio, una sorta di rottura di questo embargo politico nei confronti di Putin della Russia. Budapest, membro dell'UE, sostiene le sanzioni contro Mosca per il suo ruolo nella crisi, ma dice, ritiene che le misure siano controproducenti ed equivalgono, secondo parole dello stesso premier, a spararsi sui piedi. Orban quest'estate ha citato la Russia come esempio di democrazia illiberale a cui l'Ungheria deve ispirarsi. Infine ha concluso con la Russia un accordo da 12,5 miliardi di euro per modernizzare e ampliare l'unica centrale nucleare ungherese. Il tutto, anche se probabilmente, sicuramente Angela Merkel avrà avuto modo di ricordarglielo, la Germania resta il partner fondamentale per l'economia ungherese. Ci sono molte delle sue 6.000 imprese che hanno filiale nei paesi, basterà ricordare i grandi costruttori automobilistici. E oggi invece a Bruxelles parte l'ottavo round di negoziati tra Europa e Stati Uniti sul cosiddetto TTIP, il trattato transatlantico su Europa ed investimenti. Sentiamo servizio. L'obiettivo è creare la più grande area di libero scambio del mondo. Niente più dazi, niente più confini commerciali tra Europa e Stati Uniti, anche superando le cosiddette barriere non tariffarie, ovvero cercando di uniformare le normative vigenti. Molti settori coinvolti: auto, chimica, TLC, farmaceutica, energia, agricoltura, alimentare e così via. Le trattative sono iniziate a luglio 2013 con il primo round di negoziati. Ora parte l'ottavo. Durissime le critiche. Noi saremo presenti oggi sia per ribadire il nostro no a questo trattato che sostanzialmente vuole costruire l'utopia delle multinazionali. Così ci ha spiegato Marco Bersani, uno dei promotori della campagna Stop TTIP, che per il 18 aprile ha organizzato una mobilitazione a livello mondiale. Tasto dolente soprattutto l'agroalimentare. Meno regole possono avere ripercussioni enormi, dicono i critici. Non è vero, ribatte Paolo De Castro, relatore permanente TTIP proprio per questo settore. I negoziati commerciali non cambiano i regolamenti, per cui chi dice che il negoziato commerciale mette in difficoltà la qualità dei prodotti europei dice una cosa non vera. Per saperne di più bisognerà aspettare l'esito delle trattative. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ritorniamo anche noi a parlare di Grecia, o meglio del premier greco Alexis Tsipras, che, come sapete, domani sarà in Italia. È un ospite benvenuto, dice questa mattina a Berlino la portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre appunto il nuovo capo del governo ha iniziato il suo tour da Cipro, un tour europeo che non prevede una tappa tedesca. Ha poi però aggiunto dunque la cancelliera che comunque Tsipras è sempre il benvenuto nel paese. Un allarme bomba invece infine è scattato questa mattina in alcuni edifici che ospitano gli uffici del Parlamento europeo, ovviamente i grandi uffici di Bruxelles, della sede di Bruxelles, e tutto questo in seguito ad una vettura sospetta individuata nel parcheggio sotterraneo. Gli edifici ed anche il Parlamentarium, il grande museo aperto tutto l'anno al pubblico, sono stati sgomberati appunto per fare intervenire gli artificieri. Ecco, tutto questo naturalmente in una città dove rimane alto l'allarme terrorismo. Vi ricordo la scoperta a metà gennaio della cellula jihadista a Verviers, nei pressi di Liegi, e il livello dunque di allerta antiterrorismo in Belgio è alto ed è stato portato a grave. Con questo dunque è tutto per quanto riguarda le notizie dall'Europa. Noi ci sentiamo stasera nello spazio di Europa 24 Notte. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.